Lei sa nie cini, moli di porti e tingi con lacrime, stringi cuscini di viole, fingendo amore, fingendo amore. Lui, regni di mago perso nell'incantesimo di un mago, dannazione d'ago, stretto al braccio lego fogli d'inchiostro viola e nero. Maledetto mostro, maledetto mostro. Lutto, lei viveva di lui e l'amico scomparso, buiechi per entrambi sui drammi, draghi in mente diversi sembrando, ma tombe nel cimitero sibillando coro di eroico lutto di fango. Eroico lutto, eroico lutto, eroico lutto, eroico lutto.